Certe volte ho l'impressione di non essere esattamente quello che si dice un buon cittadino. Per esempio, quando ho appreso che il venerabile Licio Gelli aveva tagliato la corda invece di aspettare disciplinatamente che venissero a prenderlo per portarlo in galera dove avrebbe dovuto passare i prossimi 12 anni, mi sono accorto di non essere scandalizzato quanto ovviamente erano tutti i commentatori seri. Mi sono accorto che anche se non facevo esattamente il tifo per lui, figuriamoci, il mio impulso immediato era quello di augurargli buona fortuna e spero che ovunque sia rifugiato il venerabile non ascolti Radio Popolare, perché qualcuno potrebbe credere che ho scelto questa forma contorta per augurargliela veramente. Ma capirete, anche se sono dispostissimo a credere che il Gelli sia quel personaggio pericolosissimo che dicono tutti, resta il fatto che in questi anni, pur avendo seguito assiduamente la stampa e letto gran parte dei libri pubblicati in argomento, io non sono mai riuscito a capire che cosa abbia fatto di preciso per rendersi tanto pericoloso, e nessuno certamente è riuscito o ha voluto spiegarmelo in termini inequivoci. E se stringi, la sua colpa principale, come sembra, è quella di aver organizzato e diretto la loggia P2, che è una struttura eversiva, non è facilissimo capire come mai nessun provvedimento è stato preso contro tutti gli altri che di quella struttura hanno fatto parte, compresi i generali dei carabinieri, anchormen di successo, deputati, imprenditori, ex presidenti del Consiglio dei Ministri ed altre persone di pari livello. Quando qualcuno è chiamato a pagare per molti, in noi cattivi cittadini sospettosi tende a germogliare l'ipotesi che quali che siano le sue responsabilità personali se ne voglia fare un capro espiatorio. Naturalmente il discorso non vale per Pasquale Contrera, a cui mai mi sognerei di augurare buona fortuna, ma vi confesso che sono tanto poco un buon cittadino da pensare che nell'episodio che lo riguarda i casi sono soltanto due: o la Corte di Cassazione ha commesso un errore madornale a liberarlo, il che vorrebbe dire che anche la Suprema Corte fa le sue brave cazzate, cosa su cui di solito non si è d'accordo, o se l'ha liberato voleva dire che per quanto perverso il turpe individuo il diritto ad essere liberato ce l'aveva, e una volta liberato aveva anche il diritto di scappare, perché quello di non farsi arrestare nel nostro sistema giuridico è un diritto vero e proprio, tanto è vero che chi se ne vale non è perseguibile per quello. Mentre nessuno aveva il diritto di limitare in forma ufficiosa quella libertà che la massima istanza giudiziaria del paese gli aveva concesso. È sgradevole, sì, è sgradevole, ma i diritti sono diritti e le norme sono norme. Difendere i diritti delle peggiori canaglie, mi è già capitato di farvelo notare, è fastidioso ma è indispensabile per chi intende difendere i propri, perché tutto si tiene e non per niente adesso c'è gente che dice che la fuga di Gelli è Contrera e vuol dire guarda un po' che bisogna limitare i diritti e le garanzie di tutti gli altri, magari riducendo il numero di gradi di giudizio, cioè togliendo le possibilità di ricorrere in Cassazione magari finché ci siamo anche in appello. Questo significherebbe negare il principio costituzionale per cui uno è innocente finché la sua colpevolezza non è dimostrata in via definitiva, ma cosa volete che contino queste bazzeccole di fronte alla fuga di un capo mafioso? C'è un certo Folena che ha avuto il coraggio di dichiarare a Repubblica il 20 maggio ultimo scorso che la presunzione di innocenza, per carità, è sacrosanta, ma dopo la sentenza di colpevolezza s'attenua. Come a dire che uno condannato in primo o secondo grado va considerato innocente ma non troppo, che è una formulazione giuridicamente interessante. Questo Folena, pensate, ha l'impudenza di farsi passare per responsabile giustizia dei democratici di sinistra. E figuriamoci, ha detto che problemi in realtà non ce ne sono, perché tanto su questa proposta è d'accordo anche Alleanza Nazionale, che a una persona ragionevole sembrerebbe un motivo eccellente per pensare che ci sia qualcosa che non funziona, visto le origini storiche di quel movimento e la tradizione di rispetto delle libertà personali a cui si rifà. Il guaio è che, Folena a parte, proposte analoghe sono state avanzate subito dopo da eminenti magistrati del PUL di Milano, e il pio Oscar Luigi Scalfaro ha immediatamente trasformato la presunzione di innocenza attenuata di cui sopra in una presunzione di colpevolezza subito dopo il secondo grado, il che significa che le nostre garanzie di libertà personali sono nei guai fino al collo e che tira una gran brutta aria. Anche perché non è è difficile non ricordare che quanti diversamente da Gavi e da Contrera si sono disciplinatamente consegnati alla giustizia dopo la sentenza definitiva, rientrando a proprie spese dall'estero e simili, ne sono stati ripagati con un trattamento sprezzante e in genere vessatorio, con ordinanze da far ridere i polli o far piangere noi, come nel caso di Sofri Bonpressi e Pietro Stefani, o con una spiccata tendenza a negare i diritti acquisiti, come in quello del professor Negri. Che volete che vi dica? Io non lo so. Mio padre, che era un cittadino rispettosissimo della legge, citava sempre un proverbio del suo paese che raccomandava né per torto né per ragione di non farsi mai mettere in prigione. A questo esempio di antica saggezza, nonostante l'opposto parere dell'onorevole Folena, dei magistrati del PUV e del Presidente della Repubblica, io non riesco proprio a trovare obiezioni.